Nerdcast, puntata numero 10. Benvenuti, Nerdcast numero 10, almeno credo. Dopo 5 mesi ritorniamo a registrare. Nerdcast ha una nuova veste, almeno quello che ho cercato di fare, visto che ho comprato anche un microfono nuovo e non l'ho utilizzato per ben 4 mesi. Adesso l'ho rispolverato un poco e siamo pronti per ripartire, per poi fare un'altra puntata fra probabilmente altri 6-7 mesi o fra un anno, non lo so. Vabbè, a parte tutto, grazie a tutti coloro che in ogni caso continuano a scaricare le puntate, che mi mandano email e tutto quanto, insomma grazie mille. Grazie per insomma supportare la mia infinita pigrizia e, insomma, grazie di tutto. Benvenuti dunque, Nerdcast numero 10, una puntata che apre, diciamo, una nuova era, insomma cambia la faccia di Nerdcast, perché ci sono più cose che poi andremo a vedere dopo. Però per adesso iniziamo con un'altra canzone indie giapponese, J-pop. L'ho scovata tutta per voi, sono gli Ice Cream Shout. Questa è Tattooed Ears e noi ci sentiamo dopo. We'll be right back. about it. And this will change everything you know about it. Ice Cream Shout, Tattooed Ears, indie giapponese, come sempre. Allora, vi ho detto appunto che un po' Nerdcast si era rinnovato, nel senso che ci sono alcune novità, neanche troppo grandi, però mi piace chiamarle novità, e una di queste è rappresentata da, dalle sigle Evviva e dalle rubriche dedicate, con un po' più di organizzazione finalmente. E partiamo dunque con la prima... sì, rubrica, però diciamo che era più una scusa per fare una sigla simpatica. La sigla è la prossima, appunto questa che sta per arrivare, e la rubrica si chiama, con moltissima originalità, Nerd News. Nerd News. Nerd News, ok. Dunque, Nerd News, parliamo un po' dei fatti più interessanti, o almeno quelli che sono riuscito a trovare, riguardo a un po' il mondo nerd, e non solo magari dei videogiochi. Quindi partiamo dalla prima news. Dunque, credo che... conosciate, almeno abbiate sentito nominare la PSP, vero? Anche la marca di telefoni Sony Ericsson. Dunque, c'era un rumor, girava questo rumor riguardo ad un telefono Sony, cioè Sony Ericsson, che avesse in un certo senso la possibilità di far giocare con i giochi PSP, quindi fare una sorta di iPhone però Sony è con modello PSP, ed era appunto un rumor, era una cosa a cui io sinceramente non volevo credere, perché secondo me era una mossa sbagliata, però è stato annunciato, e in effetti si chiamerà questo telefono si chiamerà Sony Ericsson Zeus o PlayStation Phone, perché appunto è una sorta di ibrido, no? Tra un Sony Ericsson simile iPhone, pure di design, e una PSP, e da quanto si dice supporterà anche i giochi PSP. È una news abbastanza recente, visto che mentre registro è l'8 dicembre, quindi nella giornata di domani, cioè 9 dicembre, verrà ufficialmente proprio annunciato, o almeno così sì, dicono i rumors, verrà ufficialmente annunciato questo nuovo competitor, in un certo senso, di iPhone. Poi, insomma, andremo a vedere che davvero che tipo di competizione, no? Sony riuscirà a installare. Sempre se ci riuscirà. In ogni caso, io ho i miei dubbi, poiché, insomma, con i fan Apple, i fanboy Apple, è difficile spuntarla. Però, vabbè, vedremo. A proposito di Apple, alcuni di voi forse non ci crederanno. Io al momento non ci credo. È una news che ho scoperto ieri, diciamo, non volevo crederci, però così è. L'iPad 2. Eh sì, un altro rumor sempre, che vorrebbe che l'iPad 2, ovviamente successore dell'iPad che tutti conosciamo, che è stato molto criticato, eccetera, che però ha venduto milioni, e dovrebbe uscire verso fine febbraio, ovviamente, 2011. Adesso, perché? Allora, io non conosco nessuno personalmente che abbia mai parlato bene dell'iPad, forse neanche forse solo Apple stessa, no? Però in ogni caso, come ci hanno mostrato i mercati, Apple iPad è stato venduto a milioni di utenti. Quindi in generale, secondo me, la mossa di Apple è anche corretta nel senso economico, poiché se è andata bene una volta, cambiare giusto il design e qualcos'altro di irrilevante può farlo andare bene una seconda volta, e secondo me andrà così, perché il mercato è così. Se c'è una cosetta anche simile magari alla cosetta di qualche anno prima, la cosetta nuova però è più bella per qualche motivo e quindi viene acquistata. Quindi prepariamoci ad un iPad 2 e verso la fine di febbraio 2011, prepariamoci, ve lo dico da adesso, potete credermi, prepariamoci a vederlo praticamente venduto in una settimana in tutto il mondo, come fu per il primo iPad. È così, non ci possiamo fare niente. Adesso, se ci sono dei fan di Apple che mi stanno ascoltando, probabilmente mi odieranno, però è così, insomma, il mercato è strano, e purtroppo, insomma, sia iPad che probabilmente anche iPad 2 sono davvero due mosse strategiche più economiche che altro, inventate da Apple, almeno secondo la mia teoria. Ma è meglio se passiamo a un'altra news, perché qua non finirei più di parlare. Allora, ritorniamo a parlare di PlayStation, questa volta con Android. Allora, l'aggiornamento di Android, aggiornamento 2.3, ha rivelato dei supporti per dei tasti simili ai tasti PlayStation. In che senso? Ci sono dei comandi addizionali che hanno praticamente lo stesso nome dei tasti PlayStation. Dunque c'è il tasto L1, R1, R2, R1, Start, Select, Triangolo e qualsiasi altra cosa, integrati in Android 2.3. Per la maggior parte degli esperti, questo significherebbe in un certo senso il supporto di Android rispetto ai giochi PlayStation, e in effetti così dovrebbe essere. E in un certo senso, se ritorniamo alla news di prima, cioè il fatto del PlayStation Phone o Sony Ericsson Zeus, insomma come vogliamo chiamarlo, in effetti siccome questa si tratta di una news di qualche giorno fa, di due giorni fa, è probabile che, siccome appunto il PSP Phone, no, il PlayStation Phone verrà presentato domani, probabile che, chi lo sa, magari il sistema operativo sarà diverso. Magari il sistema operativo del PlayStation Phone Zeus, chi lo sa, potrebbe anche essere Android a partire dalla versione 2.3, non si sa. Probabilmente, secondo me, sì. E quando prima dicevo come farà Sony a immettersi nel mercato dei videogiochi misti al telefono, come ha fatto iPhone, eccetera, secondo me è già una buona mossa questa di collaborare almeno con Android. Ma ovviamente sono tutti rumors, niente è completamente verificato, lo vedremo praticamente fra qualche giorno, ma in ogni caso è interessante sottolinearlo. Dunque, per finire un attimo la denigrazione sull'iPhone, e qua sono sicuro che spegnerete, probabilmente cancellerete il podcast se possedete un iPhone. Allora, ho trovato, è uscito su internet, soprattutto su www.nerdnews.it, da dove ho preso appunto la seguente notizia, un video di un ragazzo brasiliano che mostra come bypassare l'iPhone utilizzando una serie di tasti. insomma, non ci vuole tantissimo. Io non posseggo un iPhone, però da quello che si vede nel video è proprio semplicissimo. Cioè, non basta, in effetti non serve bloccare l'iPhone con un PIN di 4 cifre, poiché qualunque PIN voi mettiate, basta fare questa procedura di 2-3 passaggi per sbloccarlo e accedere praticamente ai comandi iPhone. I tre passaggi sono questi. Ovviamente il telefono in questione, deve essere bloccato, ovviamente, con una password. Bisogna per prima cosa premere l'emergency call, cioè il tasto di chiamata d'emergenza. Da qui inserire qualsiasi sequenza di tre simboli del tastierino iPhone, qualsiasi. Dopo aver inserito una qualsiasi sequenza di tre simboli, basta premere il pulsante della chiamata, il pulsante verde, e immediatamente dopo premere il pulsante lock, che dovrebbe essere praticamente sulla testa, diciamo, del telefono. La cosa funziona, io l'ho testato sui iPhone dei miei amici, si vede anche in questo video, ed è in un certo senso pazzesco, perché insomma io credo che diciamo violare, tra virgolette, no? una roba tipo come l'iPhone in questa maniera, con 2-3 passaggi, sia proprio una cosa. Vabbè, ma non parliamo più di iPhone, perché davvero lo sto martoriando troppo nella puntata di oggi. Passiamo ai giochini. Allora, è uscito l'antascorsa settimana, finalmente, GT5, Gran Turismo 5 per PS3. Si aspettava da 5 anni, no, di più, mi sa, 6 anni. Continui rinvii, continui miglioramenti a detta di Yamauchi, ma alla fine è uscito. La media dei voti riguardo diciamo i maggiori siti italiani è di 8.5. Adesso 8.5 per un qualsiasi gioco non è assolutamente un voto negativo, però per GT5, che durante questi 6 anni è stato visto come, diciamo, più o meno Dio, ecco, è un voto un pochino, non dico basso, però qualcuno si aspettava sicuramente di più, compreso me. La maggior parte, diciamo che il competitor principale di GT5 è da tutti riconosciuto Forza Motorsport 3, uscito qualche anno prima, ovviamente, solo su Xbox 360, e la media, sempre calcolata da me medesimo, dei voti invece di Forza Motorsport 3 è più alta, una media di 9.1. Questo non significa, cioè io non credo nei voti in generale, però in effetti le opinioni un po' dei redattori, degli utenti, farebbero pensare che Forza Motorsport 3 ha avuto un processo di completamento più breve ed è riuscito anche meglio di GT5. Perché? Perché GT5, almeno al momento, ha parecchi problemi. Secondo me i due problemi principali sono, prima cosa di tutto, il realismo degli urti e, diciamo, il danneggiamento delle macchine. Perché urtare con una macchina, cioè far urtare due macchine tra di loro al Gran Turismo, non crea, prima cosa di tutto, nessun danno sulla carrozzeria e, diciamo, ha sempre lo stesso suono, per quanto piano o veloce possa andare la macchina, cioè c'è sempre quel tonfo sordo di scontro, e non succede niente. Potete anche scontrarvi 3000 volte, però la macchina finirà sempre identica e uguale. Un altro secondo problema molto rilevante è l'online, perché i server sono pochi, sono continuamente otturati e l'online non funziona neanche troppo bene. Ci sono anche ci sarebbe aspettato anche qualche modalità in più. Insomma, in un certo senso, 6 anni in effetti a ripensarci. A fare cosa? Perché sono stati spesi 6 anni per fare che cosa? Alla fine è un gioco come un altro, non ha uno spessore così rilevante. Però, almeno dice Yamauchi, producer del gioco, che sono in arrivo delle patch, una già uscita nel momento in cui sto parlando, che dovrebbe risolvere almeno il sistema degli urti. In ogni caso staremo a vedere. A proposito di Yamauchi, producer appunto di GT5, della serie di Gran Turismo in generale, udite udite, lo avremo come ospite dopo nel podcast, intervista a Yamauchi fatta dal sottoscritto, quindi insomma restate sintonizzati, perché è una cosa in esclusiva italiana proprio, anzi mondiale. Prima di passare avanti, parliamo un po' di anzi voglio citare delle news che mi hanno fatto ridere, diciamo abbastanza abbastanza. Anzi, prima di passare a queste news più ironiche, diciamo, parliamo di un'ultimissima cosa che ho visto proprio prima di registrare il podcast, e ho detto, ma sì, mettiamolo nelle news. Si tratta del 3D Mark 11. 3D Mark è un benchmark. È un software che praticamente serve a controllare le prestazioni del vostro computer per quanto riguarda soprattutto la grafica, il motore grafico. I benchmark sono probabilmente, cioè i 3D Mark probabilmente è il benchmark più famoso. È quello più utilizzato da tutti i nerd più hardcore. Utilizza, cioè molto brevemente, il 3D Mark per effettuare questo controllo utilizza, fa partire dei video in altissima risoluzione sul vostro computer per calcolare le prestazioni del vostro computer. Bene, è uscito appunto il 3D Mark 11. Diciamo che se non vi sentite neanche fin troppo nerd e non credete che la vostra carrozzeria videoludica sia fin troppo, diciamo, hardcore o competitiva, non provatelo, perché vi farebbe andare fuori di testa il computer, si bloccherebbe tutto, fidatevi. Io che mi reputavo un nerd con una carrozzeria hardcore l'ho provato, l'ho provato ovviamente al massimo, risoluzione massima, e mi è scoppiato tutto, perché cioè nel senso che non è finito neanche il controllo benchmark, perché era troppo potente. Quindi parliamo davvero probabilmente del benchmark più potente in assoluto, almeno al momento, per testare la vostra scheda video. La cosa interessante in generale è che quest'anno 3D Mark con l'undicesima versione offre ben $2000 in denaro, proprio $2000, a chi fa praticamente, a chi riesce tra gli utilizzatori a avere lo score maggiore. Cioè sì, se avete praticamente il computer migliore del mondo è riuscito, scusate, riuscite a ottenere lo score migliore del mondo sul 3D Mark 11 e la mandate online, vi verranno praticamente 3D Mark vi pagherà con ben $2000, e quindi se volete provarci, provateci, però con tutto il rispetto è difficile che riusciate a battere quei nerd proprio che si impunteranno, perché c'è gente che proprio vivrà soltanto per questo adesso. Comunque, le due news, diciamo, stupide e ironiche. La prima, sempre da nerdnews.it, un hacker viene arrestato. Diciamo, viene arrestato e sorpreso con la sua penna USB, che probabilmente aveva dei file di hackeraggio o qualcosa di simile. Parliamo ovviamente, questa cosa è accaduta in America, a New York. Insomma, quest'uomo viene arrestato, questa che viene arrestato con la sua penna USB, la memoria flash, e per non farsi beccare ancora di più, ingurgita la penna USB. L'ha ingurgitata, sì, pensando che in qualche modo il suo organismo potesse digerirla, cosa che ovviamente non è accaduta, e è stato anche sottoposto ad un intervento per farsi togliere questa benedetta memoria flash dallo stomaco. E in ogni caso ha rischiato sia di morire e non ha risolto, diciamo, niente, perché comunque la memoria flash ancora funzionava, e questa è la cosa bella. Ultimissima cosa, che con le news nerd non c'entra niente, però mi andava di citarlo. Allora, Justin Bieber, sapete chi è Justin Bieber? È praticamente definirlo cantante per me è una sorta di bestemmia, però diciamo un cantante americano, un giovane di 16 anni, credo 17, che tra le ragazzine, diciamo, sta spopolando tantissimo. Bene, che cosa ha fatto questo qua? Praticamente ha uploadato su YouTube uno dei suoi video con un suo account personale, e dopo qualche minuto il video gli è stato cancellato, perché lo stesso video era stato uploadato dalla sua casa discografica, quindi non c'era bisogno in effetti che lo uploadasse lui, però lui l'ha fatto, questo Justin Bieber, e gli è stato cancellato. Siccome Justin Bieber ha un account Twitter tra i più seguiti del mondo, diciamo, si è lamentato di YouTube su Twitter, e subito YouTube ha cercato di rimediare, eccetera, ma essendo, diciamo, i ragazzi YouTube più intelligenti, in effetti, di questo ragazzino qui, YouTube gli ha comunicato, in effetti, che il video era stato uploadato già dalla sua casa discografica e che lui poteva anche non metterlo. Però Bieber, dall'alto, insomma, della sua intelligenza, non ha capito il messaggio e ha continuato a yellare YouTube per un giorno intero. E ovviamente tutte le fan appresso a lui, a dargli ragione. Insomma, più che una news che fa ridere, è una news che fa piangere, perché a pensare che il business della musica è quasi interamente alle mani di queste persone, un po' mi dispiace. Ok, sono finite le nerd news, passiamo avanti in una rubrica, ad una rubrica un po' più soft, un po' più leggera. La rubrica si chiama I Wanna Be Nerd, ovviamente c'è una sigletta per la rubrica, e appena dopo la sigletta vi dirò di cosa parla. I wanna be nerd. I wanna be nerd. I wanna be nerd. Nerd. I wanna be nerd. Allora vai. I wanna be nerd. I wanna be nerd. Dunque, I Wanna Be Nerd è una rubrichina che parla di... cioè, che prende in esame un videogiocatore famoso, oppure magari una figura importante del videogaming, e ne delinea le caratteristiche. È una cosetta molto veloce, infatti. Parliamo di tale... Oddio, mi sono scordato il nome... Andrew Gardikis. o Gardikis, credo Gardikis. Andrew Gardikis è diventato famoso perché insomma è riuscito a finire Super Mario, il primissimo Super Mario, quello per NES, in 5 minuti o poco più, proprio precisamente 5 minuti. Intanto è partito anche il sottofondo musicale che prima mi sono scordato, però vabbè, lasciate perdere. Dunque, Andrew Gardikis è riuscito a finire nell'aprile del 2007 Super Mario per NES in 5 minuti. Adesso, perché ne sto parlando? Qualche giorno fa, lo stesso Gardikis si è trovato davanti a Miyamoto. Miyamoto, appunto, diciamo, il creatore proprio di Super Mario, non solo di Super Mario, proprio la Nintendo sarebbe Miyamoto, ecco, per intenderci. E Miyamoto ovviamente lo guardava mentre Gardikis cercava di impressionarlo, cercando di finire Super Mario di nuovo in 5 minuti. Insomma, la partenza è andata bene, la riassumo molto velocemente, la partenza è andata bene, a un certo punto inizia a fallire clamorosamente, un epic fail uno dopo l'altro, finché appunto, diciamo, Gardikis non diventa completamente rosso in faccia e si rende conto di stare facendo una figura di sterco davanti proprio a Miyamoto, che in un certo senso all'inizio è anche interessato, poi è come se lo prendesse per le schede. Per il culo, ecco. Non volevo mettere la parolaccia. Però insomma, che cosa accade? Accade che Gardikis fa una figuraccia. Insomma, fino a qui sembrerebbe giusto una figuraccia. In realtà io ho scoperto un sito. Anzi, sono andato cioè, lo conoscevo già da un po' questo sito. Però l'ho conosciuto, cioè Andrew Gardikis l'ho conosciuto proprio su questo sito. Il sito si chiama speeddemosarchive.com. Praticamente è un sito interessante perché racchiude tutti i video, tutte le prove del completamento di, non dico tutti i giochi, ma dei giochi più famosi nel minor tempo possibile. Il record mondiale, appunto, era detenuto da Gardikis sia in Super Mario 1, che mi pare anche nel 3. In ogni caso, diciamo, aveva anche, visto che insomma aveva anche acquisito una sorta di popolarità sul sito, no? Era riuscito, aveva anche aperto un blog personale, e sul blog personale aveva in un certo senso fatto il countdown, no? dei giorni che rimanevano al suo incontro con Miyamoto, quando gli avrebbe stretto la mano e tutto quanto. Quindi insomma c'era una grandissima eccitazione da parte sua, e dico, chissà quante altre volte avrà completato il gioco in 5 minuti per allenarsi. Insomma arriva lì e ovviamente fa questa figura barbina, ecco, diciamo così. E probabilmente si sarà suicidato quando sarà tornato a casa, perché era una cosa che probabilmente aspettava da anni, ecco. E questo. Quindi andiamo avanti. Seconda canzoncina. Questa è tutta strumentale. Sempre si parla di artisti giapponesi indie, questa volta electro rock. Vi consiglio di ascoltarlo con molta attenzione, perché è molto interessante. La band si chiama Hotel Mexico e la canzone è It's Twinkle. Hotel Mexico con It's Twinkle. Bene, passiamo invece adesso a parlare del Giappone. Visto che abbiamo tantissime cose da dire, iniziamo con la sigla, subito. Japan Power è quello che dice la vociona appena inizia la sigla, non so se si capisce, però comunque la rubrica si chiama Japan Power, rubrica del Giappone in generale, manga, anime, J-Rock e tutto quanto. Come ho detto prima, ho un casino di cose da dire, quindi per non farla troppo lunga cercherò di essere breve e di commentare poco. Questa volta la sigla me la sono scordata. Comunque, iniziamo dalla primissima news sul Giappone. Allora, ho deciso che inizierò questo spazio sempre commentando l'ultima classifica di Jump. Ho parlato di Shonen Jump, non mi ricordo in quale episodio di Nerdcast, ma in ogni caso, appunto, Shonen Jump è la rivista giapponese per eccellenza per quanto riguarda i manga. Ogni settimana, anche mese, esce diciamo con Jump la classifica dei manga pubblicati da Jump più famosi, anche quelli meno famosi. Dunque, partendo dai primi 5, abbiamo molto velocemente Bakuman, Naruto, Bleach, Toriko e Gintama. Rischiano invece, anzi, sono già finiti invece due degli ultimi tre, che sono Lightwing, Siren e SWAT. Dunque, sulle prime posizioni non c'è da dire niente, c'è solo magari da dire, da sottolineare questo manga che non è conosciutissimo in Italia o dai fans italiani, che è Toriko, perché non è, cioè in effetti non c'è un... È difficile che nelle prime posizioni non ci sia un manga di combattimento, perché vediamo Naruto, vediamo Bleach, vediamo spessissimo, quasi sempre, One Piece, Gintama. Invece Toriko è un... è anche Toriko è di combattimento, tra virgolette, però è più variegato. Però non fatemi parlare di Toriko al momento, perché sennò davvero non finirebbe più. È come la Apple, ecco. In ogni caso sappiate che Toriko è davvero un bel manga, molto originale, con dei disegni molto originali. Dunque l'ultima parte della classifica vede due manga finiti. Il primo è Siren. Allora, Siren è stato un manga molto bello, finito col quattordicesimo volume, che uscirà quindi appunto a breve per finirlo. Invece la delusione davvero unica è SWAT. SWAT era praticamente una delle new entry, entrato, se non sbaglio, un mese e mezzo fa, due mesi fa, è finito subito con 21-22 capitoli. È finito perché appunto non ha acquistato subito la popolarità che avrebbe dovuto avere. Se siete curiosi, andatevi a leggere anche SWAT e Siren. SWAT è stato molto criticato, SWAT, però sinceramente, personalmente, a me non piaceva tantissimo. Però tra i manga di Jump, secondo me non era il peggiore. Però insomma, così è, questo è Jump. Da sottolineare poi anche Kochikame. Kochikame è praticamente un manga millenario, perché è arrivato a, se non sbaglio, 133 volumi con chissà quanti capitoli, ed è uno dei manga più longevi. È ancora pubblicato su Jump e probabilmente non finirà mai, perché non finirà mai, insomma, non vuole finire. Vabbè, passiamo avanti dopo aver visto la classifica. di Jump. Vediamo la classifica invece molto interessante dei manga che nell'anno 2010, nell'anno fiscale 2010, hanno venduto di più in Giappone. Dunque è incredibile perché nei primi 5 posti, con un totale di più di 12 milioni di copie totali vendute, si piazzano al primo posto One Piece numero 59, secondo One Piece numero 57, terzo One Piece numero 58, quarto One Piece numero 60 e quinto One Piece numero 56. Dunque Eiichiro Oda, mangaka appunto di One Piece, ha fatto un'annata strabiliante. Probabilmente, senza esagerare, One Piece è al momento il manga più venduto, sicuramente uno il manga più di successo in Jump, perché appunto fa questi record pazzeschi, ed è pazzesco semplicemente perché con tutti i manga giapponesi che escono ogni anno eccetera, One Piece guadagna con 5 numeri diversi, 5 posizioni diverse, per un totale di 12 milioni di copie vendute. Solo la sesta posizione non c'è One Piece, c'è Full Metal Alchemist numero 25 della Arakawa, ma però soltanto per un milione e 340.000 copie vendute, quindi non si avvicina neanche lontanamente a One Piece, che ha strabordato. È incredibile vedere Naruto al numero 10 col numero 49, per esempio, per arrivare al primo numero di Bleach in classifica dobbiamo arrivare al numero 22 dei manga più venduti, con Bleach numero 42. Ed almeno per me è pazzesco, perché credevo che Bleach vendesse molto ma molto di più, invece vende di più Hunter x Hunter di Bleach, perché appunto Hunter x Hunter è al numero 19. Ed è, secondo me, una classifica interessante, perché almeno per me è interessante, perché mi ha fatto scoprire parecchie cose che non credevo possibili praticamente. Vabbè, andando avanti, una nota molto veloce, Dragon Ball, il ritorno. No, non ritorna completamente Dragon Ball. Praticamente Toriyama si è offerto volontà, anzi, gli è stato offerto e lui ha accettato di disegnare una storia riguardante Dragon Ball molto breve, in un diciamo un fascicolo di Shonen Jump che uscirà in Giappone fra qualche settimana. Un fascicolo che è praticamente uno speciale che racchiude le vignette dei manga più famosi, tra cui appunto anche una vignetta, diciamo una storia in esclusiva disegnata da Toriyama, che dunque dopo molti anni ritorna a disegnare Dragon Ball. Poi, questa è una notizia molto strana. È la prima volta che sento parlare di gay Comic Con, cioè il Comic Con dei fumetti riguardanti il mondo omosessuale, e credo anche, insomma, è un po' la celebrazione, anche un'altra celebrazione del gay, dell'omosessualità, credo, perché in ogni caso è un Comic Con ristretto, diciamo. Appunto, si è già tenuto il Gay Comic Con il 5 dicembre. Praticamente è stato un Comic Con come gli altri, ovviamente, non soltanto perché gay non deve essere diverso. È stato un Comic Con come gli altri, però insomma è curioso il fatto che i manga omosessuali debbano avere il loro Comic Con a parte. Non ho capito perché non possiamo fare un bel Comic Con internazionale dove mettere tutto quanto, sia gusti omosessuali che eterosessuali e tutto il resto. Questa cosa un po', secondo me, è un'altra operazione di marketing. Poi io ci vedo sempre la cospirazione sotto, ma questo sono io. Vabbè, andiamo avanti. Allora, parliamo di Spider-Man. Nonostante questo col Giappone non abbia niente a che fare, però, come prima, la notizia di Justin Bieber, questa mi ha fatto molto sorridere. Allora, Spider-Man, dal comandante del gruppo paramilitare iraniano, Mohammad Reza Naqdi, è stato dichiarato una minaccia per il paese, per l'Iran. E, insomma, non viene spiegato perché, però il ministro, anzi scusate, il comandante, questo comandante del gruppo militare, ha dichiarato pubblicamente che Spider-Man è una minaccia per il paese iraniano. E, non lo so, forse ha letto molti fumetti, forse ce l'ha con la Marvel per qualche motivo, non lo so, però se era davvero serio, beh, io mi preoccuperei ancora di più di quanto mi preoccupi al momento. Quindi non so, cioè, come prima, non so se ridere o meno. È una cosa molto preoccupante sapere che accadono queste cose. Ma vabbè. Ultima notizia per quanto riguarda i manga, non il Giappone, per quanto riguarda i manga, l'Arakawa, la pigra, possiamo dire, autrice di Fullmetal Alchemist, dico pigra perché questo benedettissimo Fullmetal Alchemist non vuole finire, ed esce un capitolo, ma che ne so, forse ogni mese, ormai ho perso il conto. Insomma, l'Arakawa dovrebbe finire finalmente Fullmetal Alchemist col prossimo volume, e dovrebbe iniziare il suo nuovo progetto a dicembre, che promette essere più, diciamo, più costante. Costante quasi quanto Nerdcast, che come sappiamo ha una puntata ogni 6-7 mesi, quindi alla fine di news questa non è tanto una news, è un po' more of the same, cioè un altro progetto su cui lavorerà l'Arakawa. Va bene, andiamo avanti a parlare del Giappone. Dunque, in qualche giorno fa il governo giapponese ha introdotto dei nuovi kanji, cioè nuovi ideogrammi, nell'alfabeto giapponese. È una notizia abbastanza particolare, secondo me, poiché non avveniva un cambiamento dal 1981, in cui i kanji erano stati cambiati da 1850 a 1945. Adesso i kanji sono 1967. Non sono molti di più, però è un altro cambiamento nell'alfabeto giapponese. E siccome io non studio giapponese, mi piacerebbe anche capire la motivazione. Perché sono stati aumentati i kanji? Boh, non lo so. Se qualcuno di voi lo sa o studia giapponese, me lo faccia sapere. Grazie. Andiamo avanti, parliamo dei treni del Giappone. E allora, i treni del Giappone sono i più hardcore, i più nerd, ecco. I treni giapponesi sono i più nerd perché con i treni cinesi sono i più veloci al mondo. Adesso, molto semplicemente, il governo giapponese ha detto che la Falcon Airline, no, non si tratta, la Falcon, cioè diciamo la compagnia di treni più veloce del Giappone, al momento viaggia a massimo 300 km orari, che è una roba pazzesca. La cosa bella è che la Falcon stessa ha dichiarato che entro il 2013 riusciranno a creare dei treni che possono andare alla velocità anche di 330 km orari senza interruzioni, ed è una cosa pazzesca. Io andrei in Giappone soltanto per entrare in uno di questi treni, quindi pazzesca. Alieni pronti ad invadere la Terra. Chi lo dice? Lo dice un ministro giapponese. Allora, abbiamo parlato del governo giapponese qualche puntata fa, poi durante... Dopo quella puntata il primo ministro si era dimesso, ma in ogni caso ancora c'è un governo democratico in Giappone. In ogni caso, il ministro giapponese Shigeru Ishiba, capo di Stato Maggiore, praticamente esordito, ha detto a tutta la popolazione giapponese che il paese si dovrebbe difendere da un possibile attacco alieno. Adesso, con diciamo tutte le precauzioni, perché ci stanno, perché chi lo sa quando arriveranno questi alieni, insomma, chi li conosce. Però, cioè, detto da un ministro giapponese, è stato anche abbastanza serio, insomma, ha detto gli alieni arriveranno e attaccheranno in Giappone per qualche motivo. La cosa interessante è che all'interno del governo ha trovato anche pieno appoggio del capo di gabinetto, tale Nobutaka Machimura, il quale ritiene anche egli che è prossima all'invasione aliena. Cioè c'è questa paura tra i ministri giapponesi che stanno per arrivare gli alieni. Insomma, se lo dicono loro può darsi. Cioè, alla fine gli alieni in un certo senso l'hanno creati anche loro, no? Quindi che attacchino in Giappone è anche abbastanza plausibile. Cioè, sono tutti fermamente convinti nel governo giapponese che gli UFO esistano. E secondo Machimura, anzi, sarebbero anche controllati da un'altra forma di vita. Ma vabbè, non lo so, questo è il governo giapponese, però sono giapponesi, si sa come sono. Staremo a vedere. Ultimissima cosa, vi volevo parlare delle macchinette dei distributori automatici in Giappone. Dunque, i distributori automatici in Giappone sono diffusissimi, più in Giappone che in altre parti del mondo, ed è pazzesco. E la cosa simpatica è che i distributori automatici giapponesi non sono solo distributori automatici normali, nel senso, che ne so, distributori di lattine, caramelle, eccetera, ma si distribuisce qualsiasi cosa, davvero qualsiasi cosa. Io ho davanti a me la lista di tutti i tipi di distributori in Giappone e vorrei citarveli tutti, ma probabilmente arriverei ad un'ora e mezza podcast, e quindi non mi va. Diciamo che vi cito quelli più interessanti, ecco. Allora, iniziamo dai distributori automatici di uova. Praticamente ci sono, sì, i distributori automatici che distribuiscono uova per qualche motivo, non si sa. Un distributore automatico geniale, secondo me, è il distributore automatico di ombrelli. Vanno dai 400 ai 1000 euro, 1000 yen, scusate, ognuno. E insomma, sono degli ombrelli, insomma, chi lo sa, magari un distributore automatico di ombrelli può anche servire, insomma. Poi distributori automatici di scommesse ippiche, e questo vabbè, magari ci sono anche da noi. Distributori automatici di ramen, e questi sono geniali. Cioè, distributori automatici di ramen, aspetta, di hot ramen, scusatemi, di ramen bollente. È geniale, è bellissimo. Quando uno non deve cucinare, va sotto alla macchinetta e te, ramen, è fatta. Vediamo. Vabbè, poi ci sono ovviamente i distributori automatici di bevande, normalmente. Distributori automatici di popcorn, e sono davvero molto diffusi, credetemi. Distributori automatici di popcorn, di popcorn caldi Hello Kitty. Sì, cioè questa macchinetta con Hello Kitty. C'è il distributore automatico di popcorn Hello Kitty caldi, pure questi per qualche motivo, vabbè. Distributori automatici di riso. Distributori automatici, questo non ho capito bene a che cosa servono, però distributori automatici di pulizia del riso, ma no, non c'è scritto bene, no? Sinceramente, scusatemi, ma non riesco a capire a che cosa servono. Questo è anche molto bello. Distributori automatici per ricaricare il telefono cellulare. Praticamente il telefono cellulare è tipo una sorta di religione per i giapponesi. Non lo lascerebbero mai andare, neanche dovessero arrivare davvero gli alieni. Quindi è molto importante, sì. Oddio, ce ne sarebbero così tanti, però vi sto rubando, cioè ho rubato al podcast così tanto tempo che... facciamo così, la prossima puntata di Nerdcast continuiamo con la lista perché ce ne sono alcuni davvero interessantissimi. Adesso ho urgenza di farvi ascoltare un'altra bella canzoncina, ovviamente sempre appartenente al mondo indie giapponese. Allora, questa è, lo dico molto sinceramente, è tra le quattro canzoni selezionate per la puntata numero 10, la mia preferita, è una delle mie preferite in assoluto, perché la band è molto, vale davvero tantissimo. Come quella di prima, vi consiglio di fare molta attenzione, di ascoltarla molto attentamente, perché secondo me è davvero un capolavoro. Sto parlando dei Matryoshka, la canzone si chiama Monotonous Purgatory, insomma, buon ascolto e godetevela. Thank you. ed erano i Matrioshka. La canzone si chiamava Monotone Spurgatori. Cioè, adesso non so, riuscite a capire perché mi incazzo così tanto quando vedo che certa gente, certi bambini, non faccio nomi, ecco, canticchiano le canzoni e guadagnano così tanti miliardi, e ci sono invece band come queste. Vabbè, rischio di diventare un Pino Scotto 2. Per chi non sa chi è Pino Scotto, vi consiglio di andarlo a cercare. Vabbè, siamo arrivati al momento dell'intervista, come vi ho detto prima. Kazunori Yamauchi, producer della serie Gran Turismo, è incredibilmente venuto ospite qua a Nerdcast. L'ho intervistato io, tramite ovviamente un traduttore abbiamo parlato, però devo anticiparvi che l'intervista non è andata, cioè non è finita proprio bene bene bene, però insomma, vabbè, giudicate voi, questa è l'intervista. Allora, appunto, è un onore avere il signor Yamauchi, producer, developer, tutto, di, insomma, di creatore, ecco, della saga di Gran Turismo. E, appunto, salve, signor Yamauchi, è un onore averla. No, però non stai ospite, sì, appunto. Salve. Salve, salve. Anche se per me non è tutto questo piacere. Vabbè, per noi è un... è un grandissimo piacere. Dunque, partiamo subito dalla prima domanda che volevo... Scusi, mi può dire dov'è il bagno? Il bagno? Sì, è in fondo a destra, vada pure, il bagno. Bene, grazie, a fra poco. A fra poco, va bene. Va bene, la speranza che signor Yamauchi non ci metta troppo, noi magari mettiamo su un'altra canzone. Sono tornato. Allora, sì, però lo scarico non funzionava, quindi come, insomma... Come lo scarico non funzionava? Cioè, quindi fatemi capire, cioè adesso sì, è live, ancora è tutto lì, è rimasto tutto lì, diciamo. Ah, quindi vabbè, lasciamo perdere, andiamo a, diciamo, alle domande, signori Yamauchi. Dunque, prima domanda, volevamo sapere in effetti come risponde a coloro che sostengono che il maggiore, possiamo dire il maggior competitor, no, di GT5 al momento, ovvero Forza Motorsport 3, sia in effetti un passo avanti, no, a GT5, visto che comunque anche come tempi di sviluppo, sì, diciamo che Forza Motorsport è uno strumento di assoggettamento capitalista, come capitalista, diciamo una mera copia della serie Gran Turismo. Vabbè, oltre, diciamo, al capitalismo, è indubbio in effetti che Forza abbia almeno per ora meno bug di GT5, come sappiamo, insomma. Beh, come si sa, anche il mercato automobilistico americano sta fallendo. No, ma che c'entra? Scusate. Oltre ai giochi non sanno fare neanche le macchine, ma, se non per i montanari, no, e texani. No, ma per favore, signori, non c'è. È un dato di fatto, sta fallendo. Sì, vabbè, ma oltre che, cioè, non è il tema, ecco, noi stiamo parlando dei problemi, in effetti, di GT5, che ha questi pesanti... Vabbè, non faccio finta che anche il mercato italiano stia fallendo. Vabbè, sì, in effetti, però non è ma non è questo che stiamo dicendo. Signori, per favore, ecco. Allora, stiamo dicendo... i problemi di GT, in questo senso, diciamo le cose come stanno, perché sì, GT5, ecco, non ha problemi. Come non ha problemi? Sono i giocatori che non riescono ad apprezzare la classe delle macchine indistruttibili, cioè. Ah, ecco, adesso non si capisce. Non avrebbero senso, perché non sono belle da vedere. Ah, ecco. Quindi le abbiamo eliminate. Quindi, ecco, le avete eliminate perché in effetti non sono belle da vedere. Vabbè, senta, magari può fare una stima degli anni o... Vabbè, forse dei decenni che serviranno per avere un GT6. Diciamo, ecco, lo sapevo. Un altro podcast pazzesco di un boxaro. No, che boxaro? Non sa apprezzare il valore del. No, ma non ce l'ho l'X. Non ho la 360. Io distruttivi. Sa che le dico. Sa che le dico. Che cosa. Che cosa mi dice? Che ci metteremo meno tempo di lei prima che faccia uscire un altro episodio di questo podcast pezzente. No, però signori Yamauchi, non faccia così. Signor Yamauchi. Signor Yamauchi. Non. Sì, però insomma non si fa così. Vabbè, chiudiamo il collegamento e vabbè, era l'intervista al signor Yamauchi. E questa era l'intervista al signor Yamauchi che ho fatto qualche giorno fa e insomma è finita come è finita. Insomma mi è dispiaciuto un po' perché se n'è andato in quella maniera, però vabbè. Allora noi siamo alla fine di questa puntata di Nerdcast dopo tanto tempo. È stato bello ritornare dietro il microfono. Io vi ricordo i contatti partendo dall'email. Dunque, email nerdocast@gmail.com, nerdocast, quindi ho una O tra nerd e cast. Mandatemi mail oppure scrivete sul blog www.nerdpodcast.blogspot.com, dove verrà uploadata anche questa puntata appena finirò di registrare. E poi su Twitter sono nerdfats, dunque www.twitter.com/nerdfats, aggiungetemi, aggiungo chiunque. Vediamo altri contatti. No, questi sono i contatti principali. Principalmente io mi aspetto che mi mandiate almeno una mail o un commentino. Insomma, fate un po' come volete. I metodi ci sono. Mi raccomando, date un feedback, qualsiasi cosa, anche critiche. Qualsiasi cosa, insomma, non verrò sicuramente a criticare le critiche. Quindi. Ok, a me non è rimasto molto altro da dire, quello che mi ero preparato l'ho detto, quindi io vi lascerei all'ultimissima canzone arrivederci insomma al prossimo Nerdcast. Anzi, prima di chiudere, due cosette. Una, mi sono scordato di darvi il sito ufficiale dei Matrioshka. Ve lo do perché ci tengo tantissimo, perché secondo me almeno sono una band molto che merita tantissimo. Ecco, quindi se vi è intrigato la canzone andate su www.matrioshka, scritto però come lo trovate scritto nelle note, ecco, .hp.infoseek.co.jp. Comunque il link lo lascio nelle note. Andatevi a vedere un po' il loro sito, ascoltate anche le altre tracce. Io ho comprato il loro disco e non me ne pento, sono assolutamente meravigliosi. Un'ultimissima cosa, oddio, mi sono scordato, che cosa volevo dire? Certo. Dunque, io avevo preparato, anzi ho preparato degli speciali di Nerdcast in cui parlo di giochi singoli mettendo come canzoni, anziché canzoni diciamo scaricate, canzoni appartenenti al gioco di cui parlo, in altri termini. Dovrebbe uscire quando avrò tempo di registrare, ovviamente anche voglia, questo primo speciale su Final Fantasy 9, in cui io parlerò di Final Fantasy 9 e metterò anche delle soundtrack di Final Fantasy 9. Quindi rimanete sintonizzati sul feed, sul blog, su tutto quanto. E fra qualche tempo, spero, davvero spero, molto presto, dovrebbe iniziare anche il filone degli speciali. Dunque, detto questo, ho davvero detto tutto quanto. Ricordatemi nerdocast@gmail.com. Io ho un'ultimissima canzone da lasciarvi. La canzone in questione si chiama Zunta. Anzi, scusatemi, l'artista si chiama Zunta. E la canzone si chiama Windy Day. Una canzone molto tranquilla, anche questa indie. Così ci lasciamo tranquillamente. Speriamo di ritrovarci al più presto. Arrivederci a tutti. E ricordatevi che non è nerd ciò che è nerd, ma è nerd ciò che piace. Ciao. ここじゃいけないのか。風が 風が強い日は君を抱いていいよ。淡い夢を乗せて飛んだシャボン玉。